Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Più di 5 milioni di persone in Italia sono in condizioni di povertà alimentare. Significa che per l'acquisto di generi alimentari possono spendere risorse inferiori rispetto ad una soglia standard accettabile e il loro numero continua a crescere. Negli ultimi 10 anni sono aumentate di quasi il 60%. Parliamo di più di 2 milioni di persone e sono cresciute di quasi il 90% le famiglie che non possono permettersi un pasto a base di carne o di pesce almeno una volta ogni 2 giorni. Sono dati questi appena diffusi dal Censis che fanno riflettere e fanno da sfondo ad un'iniziativa lanciata in questi giorni a Milano, il primo supermercato solidale. Sapete che cosa sono i microortaggi? Protagonisti di un vero e proprio boom nel Nord Europa e in America, stanno per diventare un must anche in Italia. Ce li ha fatti conoscere una startup pugliese. I cosmetici fai da te spopolano in rete, allora industria e retail affilano le armi e lanciano il Blend It Yourself. Ne parliamo nel focus sui trend di questa settimana. Se una società libera non può aiutare i molti che sono poveri, non può salvare i pochi che sono ricchi. John Kennedy. Aperto nel cuore di Milano Solidando, il primo supermercato in città dove la spesa per le famiglie in difficoltà è gratuita. Un modello di solidarietà innovativo che punta a coinvolgere anche i consumatori con la spesa sospesa, carrello già pagato per chi ne ha bisogno. A promuovere l'iniziativa l'associazione non profit IBVA, il direttore Agostino Frigerio. Questa iniziativa nasce all'interno delle altre iniziative che l'associazione, l'Istituto Beata Vergine Addolorata, ha adottato da più di 10 anni, iniziative volte all'integrazione dei cittadini stranieri attraverso dei corsi di italiano, un housing sociale e uno sportello lavoro. Ci siamo accorti sostanzialmente che il bisogno alimentare era un bisogno reale, sofferto da molte famiglie con minori, con bambini anche piccoli. Ora abbiamo pensato che fosse il caso di, come dire, intervenire in questo settore offrendo dei prodotti all'interno di un paniere di 83 prodotti gratuitamente a quelle famiglie straniere e italiane che rispondono ad alcuni requisiti sostanziali, la condizione economica e la composizione del nucleo familiare, la condizione economica che noi accertiamo attraverso l'ISEE e la composizione del nucleo familiare, perché per le famiglie che hanno bambini vi sono delle tessere speciali, per le famiglie che hanno i bambini sotto i 3 anni vi è una tessera ulteriore rispetto a quella che viene consegnata alle famiglie. Le tessere sono formate, hanno una 50ina di punti, le tessere delle famiglie in genere hanno una 50ina di punti che possono essere consumati nell'arco del mese, sono rinnovabili di mese in mese fino al primo, per un quadrimestre, poi avviene una verifica della permanenza o meno delle condizioni di necessità, nel caso la tessera viene rinnovata per almeno un anno. Questo consente alle famiglie di poter fare una spesa liberamente, però all'interno naturalmente di un paniere definito e soprattutto con i prodotti contingentati, il che vuol dire che di ogni tipo di prodotto che la famiglia può scegliere liberamente, non può acquistare più di un certo numero nello stesso mese, non si possono prendere 4-5 litri di olio, insomma, ecco. La tessera è sostenuta da un sistema software che traccia tutte le operazioni e che ci consente quindi di sapere anche le forme della spesa delle diverse famiglie, ma anche per intervenire aiutandole. Il contesto di Solidando è quello di un supermercato a tutti gli effetti. Voi sottolineate come questo, come dire, riesca a salvaguardare la dignità delle persone che ne hanno bisogno. Per voi è un aspetto importante. Abbiamo pensato proprio a una forma che assomigli il più possibile alla forma ordinaria dell'acquisto e cioè il grande negozio, il grande market, dove le famiglie vanno, passano tra gli scaffali e scelgono i prodotti sulla base della necessità, senza prendere quello che viene dato tout court, cosa che è spesso avvenuta, per fortuna, devo dire, nel corso degli anni da parte di associazioni o di parrocchie. Noi adesso alle parrocchie e agli enti territoriali chiediamo invece di segnalarci le persone che a loro giudizio hanno questa necessità e offriamo loro la tessera. Per il momento abbiamo distribuito 100-120 tessere circa, potremo arrivare in queste condizioni fino a 150 tessere, dopodiché avremo bisogno del contributo, della donazione o del contributo della grande distribuzione, con la quale stiamo cercando di avviare e intrattenere dei rapporti che ci consentano di acquisire prodotti gratuitamente in modo da poterli mettere a disposizione delle famiglie. In occasione del lancio dell'iniziativa avete sperimentato anche la spesa sospesa, tornerete a proporla? Crediamo di sì, perché ha avuto un grandissimo successo e perché ci sembra che sia una modalità abbastanza motivante per le persone che vengono, per poter donare qualcosa senza lasciare l'offerta, ma immaginandosi in un certo qual senso degli acquirenti e quindi provando a immaginare a quello che in una famiglia potrebbe far bisogno. Abbiamo avuto durante l'inaugurazione di settimana scorsa un numero considerevole di persone e di prodotti acquistati in questo modo, che noi adesso distribuiremo naturalmente alle famiglie. Quindi un modo per coinvolgere non solo la grande distribuzione, ma anche direttamente il consumatore, quindi in un circolo, in un cerchio di solidarietà. Che può allargarsi qualora vi siano dei volontari che intendono contribuire alla gestione operativa del supermercato, perché noi c'è un operatore che è un operatore dell'istituto, dell'associazione, e poi c'è una decina di volontari che ruota nei due giorni per ora di apertura del servizio, cioè il martedì e il venerdì mattina. Contiamo da settembre in avanti di aprire un'altra giornata, ma sono questi volontari sostanzialmente che entrano in relazione con le famiglie, offrendo anche consigli e suggerimenti, oltre che sistemando i prodotti sugli scaffali e così via. Ah, dimenticavo, il signore è un esteta! E sì, da 15 giorni se ne va la sera con chili di invenduto. Mi sono detto, avrà vinto un maiale alla fiera del prosciutto. Invece no, il signore sta imparando a dipingere. E sì, di giorno vende porri e insalate e la sera dipinge rape. Che volete che me ne faccia di un ortaggio così? Un buon suggeritore come in teatro, nascosto dietro le finestrelle dei seminterrati, pronto a fornire una risposta sferzante. I timidi avrebbero finalmente l'ultima parola. Lei certamente non rischia di essere un ortaggio, perché perfino un carciofo ha un cuore. Lei certamente non rischia di essere un ortaggio, perché perfino un carciofo ha un cuore. Cambiamo argomento, parliamo di microortaggi, nuova tendenza della ristorazione e del consumo domestico, già consolidata oltre confine sotto il nome di microgreens. In Italia se ne parla ancora molto poco. I microortaggi sono un'alternativa made in Italy ai germogli, che sono prevalentemente di importazione. Lo ha intuito Mi Green Food, una startup pugliese che abbiamo incontrato a Seeds and Chips. Ecco che cosa ha detto la fondatrice Milena Mastropierro al nostro Nicola Scevola. I microortaggi sono plantule commestibili, hanno un ciclo di produzione dai 10 ai 15 giorni e riguardano diverse varietà di ortaggi. Andiamo dal ravanello rosso al cavolo alla cima di rapa. Le caratteristiche riguardanti l'innovazione del prodotto riguardano soprattutto il fatto che questi hanno dei valori nutrizionali particolarmente concentrati rispetto agli ortaggi maturi. Inoltre abbiamo un'innovazione riguardante anche la facilità di utilizzo del prodotto, che viene venduto attraverso un substrato, quindi lo potremmo paragonare anche ad una piantina di basilico. Non sono recisi, quindi sono microortaggi che sono ancora in vita e possono essere degustati per usi dal più complesso, come quello decorativo di un piatto per ristoranti d'alta cucina, al più semplice, quello del consumatore finale, che lo utilizza per completare insalate, bruschette e quant'altro di più semplice. Perché questi cibi mi sembra di capire che hanno ottime proprietà nutrizionali. Assolutamente sì, una ricerca presso l'Università di Maryland nel 2012 ha evidenziato come alcune varietà di questi ortaggi sotto forma di microortaggi abbiano un'elevata concentrazione di vitamina E, C e K rispetto appunto alla stessa quantità di ortaggio maturo. Come vengono coltivati questi ortaggi? Cioè voi vendete il prodotto finale, diciamo, al consumatore? Assolutamente, noi sviluppiamo anche l'attività di produzione, abbiamo un'innovazione all'interno del processo produttivo in quanto vengono coltivati non in serre comuni, bensì in ambiente indoor attraverso degli scaffali e quindi una coltivazione intensiva che sviluppa un'altezza di 2,50 m. L'utilizzo di LED permette di poter riprodurre e avere una disponibilità di prodotto tutto l'anno. Arrivano le creme e i trucchi da comporre, una base comprata in negozio e un ingrediente personale da aggiungere a casa, dallo yogurt al miele. È la nuova tendenza beauty, ve la raccontiamo tra pochissimo, subito dopo la pausa. Restate con noi. Essere e avere. Perché non provare a realizzare in casa una crema per il viso? Ebbene sì, è possibile farlo con ingredienti completamente naturali, in pochi minuti e comodamente a casa. Ciao a tutti ragazzi, oggi realizziamo insieme una crema viso estiva rigenerante davvero ottima. Ragazzi, questo è un prodotto bellissimo. Vado a sciogliere la caffeina nell'acqua calda. Questa è una maschera semplicissima da realizzare, si realizza in pochissimi secondi e gli ingredienti sono facilmente reperibili. Focus sui trend. Complice la tendenza dei cosmetici fai da te, l'industria della bellezza punta al tailor made, la composizione di creme e prodotti personalizzabili in base alle proprie esigenze. E così dal do it yourself si passa al blend it yourself, dal fai al mescola da te. A suggerirci la tendenza e i casi che vi stiamo per raccontare, Luisa Aschiaro di Future Concept Lab. Ciao Luisa, bentrovata. Ciao Maria Luisa e buonasera ai nostri ascoltatori. Creme da comporre, dunque, sono già sul mercato? Sì, effettivamente è stata lanciata questa tendenza del blend it yourself a Cosmoprof, la fiera più importante in Italia che riguarda cosmetiche e creme. Allora, abbiamo alcuni casi davvero interessanti. Per esempio, partiamo con Juvena. Un prodotto si chiama Skin Session e interessante perché coinvolge in una manualità un po' alchemica, quasi da laboratorio, le consumatrici a casa, invece che come accadeva precedentemente poteva accadere all'interno dei punti vendita. Si tratta quindi di un kit di prodotto che si può acquistare dove si ha una crema, in questo caso una fluido anti-età, cui viene affiancato una serie di ampolle, 4, con dei sieri. Ciascun siero ha una differente funzionalità e quindi si può decidere se si vuole una crema che sia più protettiva, di idratante, rigenerante. Diciamo che sempre su questo tema altri prodotti puntano sempre di più su ciò che sono la naturalità dei prodotti che anche abbiamo in casa. Per esempio c'è il caso di Collistar, una crema che si chiama Essenziale Trasformista, che anche in questo caso propone un mix tra una crema base che di sé potrebbe già avere una sua funzione, addirittura arricchita da stevia e quinoa, quindi una funzione idratante, poi però con delle vere e proprie ricette che vengono proposte nel packaging si può aggiungere l'olio d'oliva, miele, lo zucchero, quindi tutti ingredienti che normalmente si hanno a casa, per in questo caso ottenere funzionalità diverse, dallo scrub a una maschera viso eccetera. Olio d'oliva e yogurt che abbiamo noi in casa, che prendiamo dal frigorifero. Sì, esattamente, è proprio questa la cosa interessante, che un po' fa da filo conduttore a tutte queste proposte di cui ti sto parlando. E poi questa idea anche proprio del avere a portata di mano e poter essere noi stesse a decidere come, quando intervenire sulla nostra bellezza. Un altro caso viene dalla Corea, azienda coreana molto famosa, molto apprezzata, addirittura questo prodotto che si chiama Vita Breed C12 ha vinto diversi premi, tra cui il Grand Gold a un contest Monde Selection dell'anno scorso. E in questo caso è un prodotto. Si tratta di un componente della vitamina C polverizzato che che si può aggiungere in tutte le nostre creme, perché ha una funzione antiossidante, antinfiammante, che quindi a questo punto arricchisce e rende più performanti ancora le creme che già normalmente utilizziamo. Per finire, sempre su questo tema, c'è un sito che si chiama Oleum Vera, che è un brand anche, che propone prodotti esclusivamente naturali, cioè questa tendenza di utilizzare, addirittura si possono scaricare delle ricette dal sito, una trentina di ricette, per utilizzare prodotti che, come dicevi prima, abbiamo nel nostro frigo, vegetali, frutta, per creare prodotti ad hoc per la nostra bellezza, oppure acquistare dei kit da loro già preparati, dove comunque sempre si aggiunge un ingrediente naturale che abbiamo in casa. Possiamo dire che anche l'industria in qualche modo strizza l'occhio alla tendenza della manualità e appunto del fai da te dei cosmetici, che spopola in rete con i mille tutorial appunto delle varie youtuber che propongono ricette per le creme fai da te. Non solo creme però, Luisa, anche il make up sta declinando questa tendenza. Sì, anche qui la cosa interessante è che alcune, ne avevamo parlato qualche mese fa, c'erano stati già degli esperimenti, Estée Lauder per esempio, all'interno dei punti vendita. Ora la cosa interessante è che si sposti anche in questo caso, nel caso del make-up, a casa. Clinique Blend It Yourself è proprio un esempio che rappresenta questa tendenza. Si tratta di una crema idratante che viene proposta, ma possiamo usare anche la nostra, qualunque che avessimo già a casa, alla quale si possono aggiungere dei pigmenti e vengono proposti quattro diverse tonalità di pigmenti. Sono delle goccine che, a seconda della quantità di pigmento e della tipologia che si inserisce, proprio anche in questo caso si mescola sul nostro palmo della mano, si ottiene una texture e un colore proprio anche diverso di un fondotinta. Quindi insomma, anche in questo caso è piuttosto interessante. Dai prodotti ai negozi, anche il retail ha individuato un terreno fertile su cui costruire nuovi format di vendita. Sì, in questo caso, insomma, diciamo che, come dicevi tu prima, dalle blogger è chiaro che insomma l'online forse è anche proprio uno delle modalità di vendita e di consumo più semplice. Infatti il primo caso di cui vi parlo è proprio questo, che si chiama Loli Beauty, un sito americano che nasce proprio anche con questa filosofia di educare le consumatrici a come poi utilizzare al meglio questo tipo di nuovo modo di prepararsi, tra virgolette, i propri prodotti di bellezza, perché poi insomma a volte nella rete c'è tanto di tutto, ma forse dare anche delle regole può essere anche utile. Quindi in questo caso si propone un abbonamento mensile, si riceve a casa, sulla base della stagionalità di frutta e verdura, una serie di kit per, in questo caso, secondo la propria profilazione, i propri desideri, poter creare delle creme direttamente a casa. E direi che per concludere, il secondo caso che così insomma mi piaceva citare è un caso semplice, perché racconta una soluzione molto così semplice ma efficace, che però va a lavorare in un ambito, l'ambito delle profumerie, che come format ha subito qualche, diciamo così, problematicità negli ultimi tempi. Si tratta delle In Ecstasy profumerie alla spina, cioè si può spillare letteralmente tra i 150 profumi proposti il proprio profumo preferito sulla base di un packaging scelto al momento. E questo è interessante, tu dicevi modelli di retail, anche perché si tratta di produttori che sono direttamente anche retailer, che è qualcosa di decisamente nuovo in questo settore. Ed è appunto un settore che ha bisogno di guardare avanti, quindi nei prossimi mesi sicuramente ci saranno nuove sperimentazioni appunto sulla vendita nel mondo della bellezza, che è sempre un osservatorio particolare per l'evoluzione del mondo dei consumi. Grazie a Luisa Schiero, alla prossima. Grazie a te, grazie a tutti voi, arrivederci. Il consumautore. Anche la politica può rivelarci qualcosa del mondo dei consumi. Specchio della società, entrambi i due settori hanno più punti di contatto di quanto si pensi. È lo spunto che ci propone questa settimana il nostro ospite fisso. Ci ha raggiunto in studio, come sempre, per la riflessione finale il sociologo Francesco Morace. Buonasera Francesco. Buonasera Maria Luisa e a tutti i radioascoltatori. Allora, partiamo dal fatto politico di queste settimane. Eh sì, partiamo sicuramente da Macron, partiamo da una Francia che sceglie l'Europa. Io credo che questa sia la cosa più importante, il segnale più importante dell'elezione di Macron. E devo dire che poi, leggendo anche il libro che lui ha scritto prima della sua elezione, si chiama Rivoluzione, si capisce anche qual è il suo pensiero e la sua visione rispetto a un recupero di valori civili europei, naturalmente partendo dall'idea repubblicana che la Francia ha e ha sempre avuto. Tu mi hai detto che questa cosa avrà un impatto anche sulla cultura del consumo. Perché? Perché credo che l'Europa in questo momento, con la Brexit, abbia, quindi diciamo l'Europa continentale, abbia cominciato davvero a capire quanto sia comunque un territorio che ha moltissimi elementi di somiglianza. Quindi un consumatore europeo torna ad essere un po' al centro, credo, anche delle strategie delle aziende non solo delle multinazionali, ma anche di aziende come quelle italiane che giustamente stanno ripensando anche a come raggiungere con più forza gli altri paesi europei. Quindi è un problema di consapevolezza. Del resto, se pensiamo anche alle lotte consumeriste di questi anni, molte conquiste si devono proprio al fronte comune europeo, compatto. Non c'è dubbio, e sicuramente la sostenibilità è uno dei grandi temi che in realtà nasce, cresce, si sviluppa partendo sicuramente dai paesi del nord Europa, ma anche nei nostri paesi. È un momento in cui finalmente si possono nuovamente valorizzare gli elementi comuni e non solo le differenze, e gli elementi comuni pesano di più delle altre cose, ad esempio la qualità della vita che noi abbiamo in Europa, ma anche il welfare, anche valori legati all'appartenenza ad una comunità, credo che torneranno a essere molto importanti. Il rischio è sempre quello che qualche paese pensi di poter fare da solo, come dire, in questo appunto una cultura comune in tutti i settori serve ad evitarlo. Sì, e io devo dire che adesso è presto ancora per dirlo, ma non temo la ricostituzione di un asse franco-tedesco che escluda gli altri paesi. Credo che questo sia un primo passaggio dove ad esempio l'Italia poi potrà avere un ruolo molto importante, anche il Mediterraneo. Quindi speriamo che questa elezione, al di là del personaggio, che poi come sempre dovremo verificare nei fatti, quindi al di là di Macron, possa sicuramente dare un nuovo orientamento a tutti noi. Grazie a Francesco Morace, grazie ad Andrea Roccabella in regia. Essere Avere torna domenica prossima. Non mancate. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.